3D è la produzione. Yes, man. Yes, yo. Tempo perso. Fratello cane secco. Continui a chiederti il perché di questo. Perché scrivo un testo, miro ad essere fresco. Ma al tempo stesso io resto me stesso. Resto quello immerso in questa storia del rap. E tu dammi luce. L'industria non mi produce, la scena non mi introduce. Tu guarda, c'è chi fa salti mortali e miracoli per abbattere gli ostacoli. E chi li salta non c'è male. Faccio bombe nella capitale. Do fuoco al tuo capitale. Bene o male, ma per te va bene uguale. Vorrei solamente fare musica che fumare, le canne mi danno fame. Di rap non dà da mangiare, un controsenso. Il mondo è controverso, il microfono, i soldi, l'odio, i riscontri, ed io non trovo un compromesso. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Dammi luce adesso, pure me la prendo a credito. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Altrimenti questa merda non avrà mai seguito. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Dammi luce adesso, pure me la prendo a credito. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Altrimenti questa merda non avrà mai seguito. Prima senti ogni mio testo e dopo prendi il rasoio. Sono l'unico maestro che ti autentica il foglio. Magari un domani vivo di rendita e muoio. E intanto sto tra gli infami nel dimenticatoio. Vivo un mondo tetro e da cieco, ti prego dammi luce. Senti che lo chiedo dall'eco degli anni. Ma tu pensi che sto come gli altri? Sto avanti miliardi di anni luce. Non basta accoppiarmi, studiarmi come gli Amanuensi. Sul palco Madman, vado al col come Bender. Talento e DNA, stessa cosa come Mendel. Il tempo è il boom bap, stessa cosa come Redman. Riempio il tuo gap, baby love me tender. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Dammi luce adesso, pure me la prendo a credito. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Altrimenti questa merda non avrà mai seguito. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Dammi luce adesso, pure me la prendo a credito. Dammi luce adesso, perché adesso me la merito. Altrimenti questa merda non avrà mai seguito. Io vedo nero come un cieco e prego un Dio, mentre il 30 produce, che non sia tutta una finzione sta forza che ci conduce. E cerco luce in tempi bui quanto quelli del duce. Ma vedo solo un punto bianco lontano, millenni luce. Però io vado avanti senza aiuti, in umbre supplico. E piuttosto preferisco darmi fuoco in pubblico ed un dubito della nostra innata solarità. Ma se spengo i riflettori non ve vedo brillà. E noi vivemo chiusi studio come Eminem dei tempi d'oro, senza troie attorno e le gioie di un disco d'oro. Perché questi odiano chi sforza e rappa per lavoro, ma le bollette della luce non le pagano loro.